Cari amici, sul mio cellulare ho già ricevuto tantissimi auguri, forse anche da parte di qualcuno di voi. Buona festa delle Palme. Si sente che la gente ha dentro il cuore, questa gioia pasquale, questa gioia di questa settimana santa. Ed è un po' umiliante, non triste. Triste no, ma umiliante che dobbiamo festeggiarla in questa maniera. Però io vorrei che la festeggiassimo ugualmente. In che modo? Io vorrei parlarvi di un tema, la memoria. Non perché faccio il professore e dico dobbiamo imparare a memoria le cose, dobbiamo ricordarle a memoria. No, no, la memoria è un dono grande dell'uomo. Se l'uomo non avesse memoria, sarebbe un animale. La memoria è una realtà, è un dono che Dio, la natura ci ha dato e serve a noi come persone e serve a noi come cristiani. Serve a noi come persone. Provate a pensare quanto è dolce la memoria delle persone che ci hanno amato e che magari abbiamo perso. La memoria è fondamentale per conservare nel nostro cuore la dolcezza di un volto. O magari giriamo per casa e vediamo una cosa che è appartenuta a una persona che abbiamo amato e ci viene un po' di magone, ci viene. È la memoria che ridesta in noi l'affetto e l'amore. La stessa cosa vale da un punto di vista cristiano, sapete. E perché la gente fa gli auguri di buona settimana santa, buona festa? Perché si ricorda. E anch'io cercherò di ricordare a me stesso e alla vostra mente cos'era, cos'è stata. Cosa tornerà ad essere per noi la settimana santa? Certamente tutti voi ricorderete la festa delle Palme. Io ho in mente, quando ero in una parrocchia grossa, era un tripudio vedere i bambini che agitavano rami di ulivo, ma anche ci procuravamo delle grandi palme, era una festa, era un gioco. E perché no? Ma il gioco è una cosa bella, è il modo con cui il bambino cresce, il bambino festeggia, impara. Si passava per le strade del paese con le campane che suonavano, normalmente si trovava il sole, normalmente. E quando si entrava in chiesa, pur avendo una chiesa grande da 900 posti, sembrava che la gente non ci stesse tutta la Domenica delle Palme. Venivano tutti e facevo accomodare i bambini anche sui gradini dell'altare. Per me era bellissimo girarmi e avere lì i bambini tra i piedi, una marea di chierichetti. Io descrivo quella che è la mia memoria per sollecitare ciascuno di voi a richiamare la sua memoria dei fatti che ha vissuto. E così poi tutta la settimana santa, che aveva un tono particolare, non per nulla la Chiesa con una parola latina la chiama settimana autentica, in latino, hebdomada autentica, settimana vera, autentica, verace. Provate a richiamare ancora alla vostra mente cos'era, cos'è stata anche la messa in cena Domini o la messa per i bambini in cui si faceva magari la lavanda dei piedi, questo rito così semplice eppure sempre così toccante. Toccante per chi la riceve, toccante per il sacerdote che la fa, magari inginocchiarsi e lavare simbolicamente questi piedi, tanto tutti profumati perché le mamme ti mandavano lì i bambini, tutti agghindati e profumati. Ma guardate, vedere la realtà dal basso cambia tutta la prospettiva. Cambia tutta la prospettiva vedere la realtà dal pavimento. E ripetevamo quello che Gesù ha fatto con i discepoli. Oh, cari amici, non finirei di ricordare, abbiate pazienza, ma veramente la memoria è una cosa grande e mi permetto di insistere perché anche voi di tutte le età possiate avere memoria e voi genitori, e voi nonni, e voi educatori, e voi catechiste sappiate educare in modo tutto speciale i bambini, i ragazzi a questo. Gli fate un regalo che resterà nella loro vita. E il Venerdì Santo io ho visto chiese piene, suggerivo e più di uno accettava di prendersi magari mezza giornata di ferie il venerdì pomeriggio per venire alla Passione del Signore. Dico, prendete tante, tante ferie per tanti motivi. Magari per una visita medica, magari per andare, prendete per stare col Signore. Adesso mi direte, Don, altro che ferie, siamo a casa confinati. Sì, ma io parlo della memoria e parlo anche del futuro, perché la memoria ci rilancia verso il futuro. Non finisce qui la nostra vita, amici. Grazie a Dio. E pensare famigliole intere, anche di gente che non si è mai vista in chiesa, eppure il crocifisso, il bacio del crocifisso attira ancora tanta gente, amici, ma noi ce l'abbiamo dentro nel cuore, il nostro essere cristiani, ce l'abbiamo dentro nel cuore, siamo stati plasmati, è diventata anche non solo memoria religiosa, ma anche cultura del nostro paese. Ringraziamo Dio. Ricevo tanti messaggi, tanti video in cui si inneggia l'Italia, no? Siamo italiani. È vero, ringraziamo Dio. Questo sport che tante volte noi scioccamente facciamo di parlare male degli italiani, non è vero, non è vero. Siamo un popolo meraviglioso, anche per la nostra fede cristiana, amici. Non per niente c'è Roma con il Papa, non per niente. Questo Venerdì Santo che vede tantissima gente venire a baciare il crocifisso. E poi il Sabato Santo, questo momento così come di sospensione, come di silenzio, sembra proprio l'attesa, anche se poi pomeriggio si comincia nelle chiese, coi sacrestani, con i sacerdoti, con le persone, a preparare l'altare. Che bello! Preparare l'altare per la messa, la veglia di risurrezione. E se avete fatto il chierichetto, certamente avrete vissuto anche voi quel momento da sorridere, ma anche quel momento gioioso in cui il sacerdote annuncia: Cristo, Signore, è risorto, rendiamo grazie a Dio. E poi l'organo si scatena e i bambini, i chierichetti, con i campanelli di tutte le fogge, di tutte le forme. Cristo è risorto, amici. E poi la domenica di Pasqua ci si trova insieme, ci si scambia auguri, auguri, buona Pasqua, buona Pasqua. Auguri. Sì, amici, nel nome di Gesù, con la nostra fede, cominciamo fin da adesso a dirci auguri. Passerà, sta passando, ci ha cambiato, ci cambierà. Ce lo dirà la storia, ma riviviamo nella memoria viva questa settimana santa e questa preparazione alla Pasqua. Non siamo tristi. Richiamate anche voi alla mente, alla memoria, il passato, perché come dice una frase bellissima che ho trovato scritta su un cartello, quando un parroco ha rinnovato il centro parrocchiale, con la sua gente evidentemente, l'ha rifatto come nuovo, però ricordandosi che quell'oratorio, quel centro giovanile, quel centro parrocchiale aveva alle spalle una grande storia, la memoria, ha fatto scrivere una frase bellissima. Nelle radici il nostro futuro. Che sia così anche per noi.